Terza lezione, 10 novembre. Pascal. Gli uomini sono così necessariamente folli che il non essere folle equivarrebbe ad esserlo secondo un'altra forma di follia. E quest'altro brano di Dostoevsky nel diario di uno scrittore, non più si persuade del proprio buon senso, chiudendo il prossimo, il manicomio. È necessario fare la storia di quest'altra forma di follia, della forma per mezzo della quale gli uomini, nel gesto di sovrana ragione che chiude il prossimo in manicomio, comunicano e si riconoscono attraverso il linguaggio spietato della non follia. Rintracciare il momento di questa congiura, prima che essa abbia trovato stabilmente posto nel regno della verità, prima che essa sia stata ravvivata dal lirismo della protesta. Cercare di raggiungere nella storia questo grado zero della storia della follia, quando è ancora esperienza indifferenziata, esperienza non ancora scissa della stessa scissura. Descrivere sin dall'inizio della curva quest'altra forma che da una parte e dall'altra del suo gesto lascia cadere come cose ormai esteriori, sorde a ogni scambio, quasi morte l'una per l'altra, la ragione e la follia. Si tratta indubbiamente di una regione scomoda, di una regione scomoda. Per percorrerla occorre rinunciare alla comodità delle verità terminali, come i pazienti, e non lasciarsi mai guidare da quello che noi possiamo sapere della follia. Nessun concetto della psicopatologia dovrà avere una funzione organizzativa, anche e soprattutto nel gioco implicito delle retrospezioni. È costitutivo il gesto che distingue la follia, ma non lo è la scienza che si stabilisce a separazione conclusa nella calma ripristinata. È originaria la cesura che stabilisce la distanza tra ragione e non ragione. Quanto alla presa che la ragione esercita sulla non ragione per strapparle la sua verità di follia, di errore o di malattia, essa ne deriva e da lontano. Bisognerà dunque parlare di questo contrasto primitivo senza supporre né la vittoria né un diritto alla vittoria. Parlare di questi gesti confusi nella storia, lasciando in sospeso tutto ciò che può dare l'idea di conclusione, di riposo nella verità. Parlare del gesto che ha provocato questa separazione, che ha imposto questa distanza, del vuoto instaurato tra la ragione e ciò che non lo è, senza mai appoggiarsi sulla pienezza di ciò che essa pretende di essere. Allora, non vi abbiamo dato questo testo che vi ho letto adesso, che è la prefazione alla prima edizione della storia della follia. Chiedo scusa anche per un errore di anno che ho messo nel testo che vi ho mandato, la prima edizione della Histoire de la Folie, o meglio di Folie et de Raison, Follia e ragione, sottotitolo Storia della follia nell'età classica, è del 1961, non del 60, come erroneamente ho scritto. Non ve l'abbiamo messo perché in realtà questa nuova edizione, che è appena uscita da poche settimane, della Storia della follia nell'età classica a cura di Calcina, versione italiana, è finalmente per la prima volta una versione integrale. Che cosa mancava nella vecchia traduzione, che è quella che io lessi poco e male, senza alcun costrutto, 30 anni fa, e spero con qualche costrutto un po' migliore negli ultimi anni. Intanto mancava un intero capitolo, il capitolo per chi volesse, vi do un po' di filologia che può essere utile per chi. Mancava totalmente il primo capitolo della parte terza, non so bene per quali motivi. No, della parte seconda, sbaglio. Il folle nel giardino delle specie mancava, e sono quasi 50 pagine che ne erano via. E poi la redazione aveva deciso, ogni volta che c'era qualche pezzo di qualche medico sconosciuto del 600, ma che mai è questo termine, diciamo via italiano. E quindi come nel quando ero piccolo io andavo al cinema parrocchiale, la gran parte della mia formazione cinematografica avvenne lì prima che in un corso dei gesuiti di qualche anno. Quando ero piccolo, andavo là. E mi raccontava mia madre e mia sorella che mi hanno allevato, mi raccontavano che il parroco vedeva sempre tutti i film prima e ovviamente faceva tagliare tutte le scene vagamente supposte, no? Siccome siamo a Genova, l'operatore si chiamava Costa, il parroco stava lì, guardava il film, quando vedeva diceva Costa, taglia! Costa, taglia! E Costa tagliava, sì, non c'era ancora le pellicole a mano, con lo scotch, eccetera. Costa taglia, e così dice Ferrucci, il traduttore, è la stessa traduzione che c'è adesso, Ferrucci taglia, e qua tanto si fa. Quindi la storia della follia, pur essendo un librone, pure nella vecchia edizione che ho io, perché è su carta molto più spessa, eccetera, eccetera. Figura. Va bene, quindi questo. E fra le cose che mancavano però per colpa di Foucault, non per colpa dei traduttori, è questa prefazione di cui vi ho letto l'inizio, è la prefazione alla prima edizione dell'Histoire de la Folie, 1961, e però dalla seconda edizione in poi, la edizione del 72, se non vado errato, quindi 11 anni dopo, Foucault stesso toglie questa prefazione che aveva messo, evidentemente la considerava, adesso vedremo perché ne parleremo. Mario Galcigna, che era uno psicanalista e uno studioso di Foucault, eccetera, ha curato questa nuova, oltre a varie altre cose, questa nuova edizione italiana, scrive la sua introduzione quasi tutta su questa prefazione di Foucault. E così farò, credo anche oggi, per imitare un po' Galcigna, per seguire Galcigna, dirò alcune delle cose che dice lui, altre magari le dico io. Allora, questo è il primo vero libro pubblicato da Michel Foucault. Quando lo pubblica ha 26, 61, 35 anni, però in realtà l'ha scritto già 2 anni prima. Questo libro è la sua tesi di dottorato. La carriera accademica di Foucault nei primi anni è travagliatissima. Perde quasi tutti i concorsi che fa, non lo vuole, cacciano via tutto, lui fa domanda, non via. Allora, Piglia se ne va all'estero, adesso non mi ricordo in quale anno, sono 3 i paesi principali tra il 55, 56 credo e il 61 appunto. Prima va in Svezia, ad Uppsala, dove sta un po' di tempo, fa il bibliotecario praticamente, insomma, o poi dopo lo passano di ruolo, passa qualche anno, fa Uppsala. Poi cosa fa? Prima di Amburgo, se non altro che non mi ricordo, poi finisce ad Amburgo, dove invece fa il responsabile della Uppsala, perché poi le cita anche, le dice queste città. Comincia a scrivere ad Uppsala, perché prima pensava di fare una tesi di dottorato in Svezia, dove erano un po' meno cattivi che in Francia, poi ovviamente insomma però la fa, alla fine la fa in Francia. Anche la ricezione nel mondo accademico di questo testo, che è già praticamente, adesso non lo so perché non ho consultato, non sono uno specialista, uno storico di Foucault, ma quindi non ho consultato, non ho visto, suppongo che sia un po' più ampia, se mettiamo che fosse anche, ma forse anche solo della metà, pensate, cioè altro che le tesi della Minosa, cioè sono, è proprio, era lui quello a scrivere, insomma. E però gli viene rifiutata la prima volta che la che presenta, perché non è abbastanza, intanto perché non si capisce bene che libro sia, come ovvio, adesso vedremo che cosa. Poi vabbè, alla fine incontra prima Gianni Politz, che è un grande studioso di Hegel, autore soprattutto insomma, di varie cose, tra cui di un libro molto importante che è Il commento alla fenomenologia, e Politz è l'autore attraverso il quale c'è una lettura in quegli anni in Francia, già negli anni 30, di Hegel piuttosto poco canonica, a cui si rifaranno una serie delle persone, degli scrittori, soprattutto non dei filosofi, che per tutta la sua vita, più o meno Foucault, dichiarerà essere stati i suoi principali ispiratori, cioè Bataille, Klossowski, ma soprattutto loro due anche in parte Caillois. ma insomma quelli che finirono nel 31-32 nel collegio di sociologia, tutti, come dire, hegeliani eretici. Era una diciamo lettura di Hegel molto poco essenzialista e molto più, chiamiamola, processuale, insomma, no? Quindi si capisce perché persone di questo tipo avesse. Quindi prima politica, poi un altro personaggio che ha una grande importanza nella formazione di Foucault, che è uno di cui in Italia si conosce molto poco, che è Kang Yem, uno storico delle scienze, a cui, se non vado errato, è addirittura dedicato le parole e le cose. Ed è Kang Yem che legge questa roba e dice: no, bello, bravo, hai fatto bene, tienila così, e dice: difendila, perché bisogna. E però anche per trovare l'editore sono stati cazzi acidi, cioè ci ha messo un sacco, cioè non, fino a trovare poi, credo, questo Vrin, che è quello che verrà poi pubblicato. Insomma, è un testo travagliato. È un testo travagliato, adesso volevo parlarvi un attimo della ricezione, però prima di questo volevo dirvi, già se voi avete, se avete colto, se non esattamente i contenuti, ma insomma perlomeno il tono e lo stile di questo avvio della, di questa prefazione del 61, voi capite insieme quali sono le continuità e le discontinuità già del Foucault di questo periodo. Adesso vi anticipo, naturalmente dal punto di vista di quello che vogliamo fare in questo corso, cioè del rapporto tra soggetto e genealogia, cioè sviluppo delle condizioni di possibilità di diciamo nascita, più che del concetto, più che dell'idea di soggetto, delle pratiche che definiscono il soggetto. Da questo punto di vista è ovviamente un testo ancora molto acerbo, però da un altro punto di vista invece io direi che c'è già tutto Foucault qua dentro, con una terminologia che non è sempre chiara e anche con una coscienza che lui ancora non ha, ci mancherebbe altro delle cose. Però intanto il termine di archeologia figura già per la prima volta nella storia della follia. E poi è un libro importante perché è il libro che rende, non tutto quanto un tratto, ma nel corso degli anni, che rende, diciamo, famoso Foucault. Allora volevo semplicemente, brevissimamente, riallacciandomi proprio alla prima parte della scorsa lezione in cui Amos vi ha delineato così bene, diciamo, due delle prospettive che dominarono la filosofia nella filosofia, soprattutto quella francese, ma insomma anche più in generale, sì, ma anche la tedesca, insomma, quella europea in genere, con l'eccezione dell'Inghilterra. L'Inghilterra è sempre stata una cosa un po' a parte, già nel 700 era, insomma, così, i filosofi inglesi, lì regna quella che poi si stava chiamando in quegli anni filosofia analitica, c'era un asse, diciamo, Londra-Vienna o Cambridge-Vienna, che è ben esemplificato dalla storia di Wittgenstein, che sta in tutte e due le cose. Mi dispiace che non ci sia qui la vostra compagna Tine Melcher, che nel corso di questi anni ha fatto una bellissima ricerca su Wittgenstein e Wittgenstein dal suo punto di vista, naturalmente. Con Wittgenstein non posso parlare di tutto, quindi non la... diciamo, allora, da un lato la fenomenologia che vi ha illustrato Amos, e dall'altro l'ermeneutica, che è diciamo il cui esponente principale non è Heidegger, è Gadamer, che è un po' più giovane, ma insomma però deriva da, è uno sviluppo del pensiero di Heidegger. Vorrei aggiungere semplicemente un terzo protagonista di cui per non parlare troppo lunga, ma anche perché ci siamo un po' dimenticati di introdurre, che è importante però per Michel Foucault, ed è quello che in quegli anni e anche adesso si è chiamato strutturalismo. Quindi sono un po' queste, e poi naturalmente senza dimenticare più di sfondo marxismo e psicanalisi, naturalmente, insomma. Quindi diciamo, se volessimo ricostruire più o meno la costellazione concettuale nella quale il giovane Foucault si trova nella quale si forma, cioè il primissimo Foucault, prima della storia della follia, ci sono due soli testi significativi, prima, uno più o meno è contemporaneo. Il testo di prima è una introduzione a un libro di Ludwig Binswanger. Binswanger è uno psicanalista, uno psicologo, uno psicoterapeuta comunque, insomma, derivazione, di impronta, di ispirazione esattamente husserliana, insomma, fenomenologica, anche poi fa una serie di critiche, eccetera. Quindi il primo testo, che è del 54, Sogno ed esistenza, Traum und Existenz, viene tradotto da Foucault, credo, non so, no, comunque non so se lo traduce lui, ma comunque scrive una introduzione nel 54, quindi quando è ancora molto giovane, insomma, 30 anni. E quindi il primissimo Foucault è ancora dentro, insomma, in qualche modo aderisce a una impostazione fenomenologica, è influenzato ovviamente come tutti dal marxismo, ma perché, quindi allora abbiamo detto, insomma, marxismo e psicanalisi, insomma, Marx e Freud, più che Jung naturalmente, fenomenologia ermeneutica. Lo strutturalismo è importante perché Foucault è stato accusato, è stato etichettato dai soliti giornalisti culturali che fanno bene il loro mestiere, ma in quanto giornalisti scrivono cose di cui non sanno un cazzo, questa è l'essenza del giornalismo, cioè scrivere cose di cui non si sa nulla, e quindi vabbè, insomma, però anche purtroppo anche altri suoi colleghi, cioè, tutto c'era strutturalista. In realtà in quel periodo si dava dello strutturalista un po' a tutti, perché questo strutturalismo era una cosa che sembrava. Quindi passarono per strutturalisti anche per esempio personaggi che non lo erano per nulla, come non lo era Foucault, per esempio Lacan e Althusser, i quali però tutti venivano etichettati strutturalisti. Allora anche Foucault, diciamo che anche lui era uno strutturalista. Ora lo strutturalismo è importante però perché, pur non essendo strutturalista Foucault, è vero che alcuni temi, come alcuni dei suoi temi derivano evidentemente dal pensiero di Husserl, sono riletture, poi magari stravolgimenti anche del pensiero di Husserl, così una parte del pensiero strutturalista. Allora brevissimamente voglio ricordarvi, per chi non lo sapesse, chiedo scusa a quelli che già lo sanno meglio di me, ma vi dirò come io leggo. Allora, in realtà l'unico vero nome tra quelli definiti come strutturalisti è ovviamente quello di Lévi-Strauss. Lévi-Strauss non so se è ancora vivo, sta per perché lo ricorda, non vuole tirare, è morto cancionista, 100 erotti anni. Quindi, allora, l'unico vero strutturalista era ovviamente Lévi-Strauss, e lo strutturalismo nasce in antropologia, quindi nel pensiero antropologico, anche qui in parte come superamento polemica della tradizione antropologica precedente a Foucault, a Lévi-Strauss, diciamo, esemplificata nel nome di Malinowski, tanto per fare diciamo un esempio. E l'idea di fondo di Foucault, di Lévi-Strauss, è quella di prendere più o meno pari pari la linguistica sociliana, di Saussure, una roba ricchissima, perché della fine del secolo, della fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento, il corso, poi il libro esce tardi, ma esce postumo, dopo che non ha mai scritto un libro, Fernando Saussure, chiamato corso di linguistica generale, sono gli appunti dei suoi allievi, di due dei suoi allievi, collazionati messi un po' insieme, esce mi sembra la prima volta nei primissimi anni 20, 21, 22, non lo so, però è già una tradizione, c'è già qualcuno che l'ha. Lévi-Strauss lo riprende alla fine degli anni 30 e lo applica. Qual è l'idea di fondo dello strutturalismo? Anche se non nasce in un ambito direttamente filosofico, anche lo strutturalismo affronta esattamente i temi di cui vi ha parlato Amos la volta scorsa, introducendovi Husserl e Heidegger, cioè è un tentativo di uscire dalla palude, dal pantano e dal casino nei quali ci butta la concezione cartesiana del soggetto e principalmente la sua distinzione così netta, la sua opposizione, direi quasi, tra soggettività e oggettività. L'idea di fondo di Saussure era che il linguaggio fosse sì certamente un sistema, uno strumento di espressione degli esseri umani, di comunicazione, ma fondamentalmente per, come dire, Saussure, ecco perché strutturalismo, era un sistema, era qualcosa che aveva una struttura, ecco perché, e che la cosa più importante non era tanto quello che lo stesso Saussure aveva fatto sino a pochi anni prima, studiare la storia delle lingue, l'evoluzione delle lingue, la mitica lingua indo-europea in cui tutti quando i tedeschi, soprattutto i tedeschi, cominciano nei primi anni dell'Ottocento ad accorgersi che ci sono delle parentele tra le lingue germaniche, le lingue latine, eccetera, eccetera, l'ungherese e il turco, si rovinano la festa, ma insomma però che ci sono dei rapporti con alcune delle lingue parlate nell'India, così dice, c'è una grande famiglia europea, è l'epoca, insomma, viene fondata questa linguistica storica che spiega, e cui tutta, diciamo, la preoccupazione dei con linguisti era quella di andare a, anche un po', diciamo, grottesca, perché alcuni di essi, non tutti naturalmente, non Humboldt per esempio, ma molti altri, quelli più classici, si inventarono che era davvero esistita un tempo una lingua comune. Allora vedete che qua c'è già un tema, è l'origine, c'è qualcosa in originario, una volta era così, quando stavano tutti insieme. Allora c'è una lingua, contro ogni buonsenso, contro ogni evidenza, ma con un accanimento filologico terribile, quindi con una buona dose anche di positivismo, andavano a costruire la grammatica dell'indo-europeo, cioè c'era una lingua, non conosciamo nessuna lingua chiamata indo-europeo, come ovvio, sono cose ridicole, non oggi, viste oggi, sono stati nell'Ottocento, magari ci cascavamo pure noi, ma insomma adesso possiamo dire, ci fanno, diciamo, ridere, perché c'erano tutte le parentele. Ora è chiaro che ci sono le parentele, ma dalle parentele, vedete che qua c'è un salto, in qualche modo, Saussure non fa questa critica solo in modo implicito, adesso io vi do una ovviamente lettura ex post, cioè dopo che, però in qualche modo anche Saussure, una delle critiche che fa Saussure a questo, diciamo, a questo eccesso di comparativismo storico è proprio questa. Non è lecito, non ci sono ragioni fondate per trasformare un insieme di relazioni, di somiglianze, di rapporti documentabili fra un certo gruppo, una certa famiglia di lingue, con le ragioni per passare da questa evidenza alla affermazione, allora deve essere esistita una lingua, un tempo, una lingua comune, la chiamiamo indo-europea. Questa cosa la potete estendere, ancora oggi ci sono linguisti, è uscito in Italia lo scorso anno ancora un libro di questo tipo, di questo genere, per fortuna sono una minoranza adesso, linguisti, i quali si ostinano a tentare di dimostrare la fondatezza storica del mito di Babele, cioè che ci sia stata a un certo punto una lingua originaria, una Ursprache, una lingua, è una roba ridicola, è una cosa, perché non c'è, cioè bisogna andare, prendere delle cose, fare dei passi sempre indietro, allora se questa lingua è collegata con quella, allora famiglia, poi queste famiglie hanno qualcosina di comune, a un certo punto se non, voi se volete leggete di questo libro, che però fa morire da ridere, perché a un certo punto si trova per forza di cose a dover prendere come prove di questa sua tesi delle parole diversissime le une dalle altre, con suoni diversi, ma tanto perché c'è tutte queste leggi storiche insieme danno origine a questo pasticcio. Per fare questo, naturalmente, che cosa c'è dietro? Perché ci interessa in questa sede a diciamo a noi, non stiamo discutendo di linguistica, quindi, ma perché dietro a questa cosa c'è una posizione filosofica, c'è un concetto, c'è un presupposto implicito, magari non espresso, ma che è questo, e cioè che ci sia in tutte le cose una origine, un fondamento, qualche cosa da cui io posso, qualcosa di stabile da cui io posso partire. Da un certo punto di vista questa cosa è ovviamente connaturata con la filosofia. Quando per la prima volta Talete, 7 secoli prima di Cristo, disse sì, c'è un sacco di cose nella natura, però al fondo tutto si può ricondurre all'acqua, è tutto fatto di acqua al fondo. C'è un pensiero di questo tipo, di per sé non è una cosa, diciamo, né che va condannata, né che va, è giusto cercare le parentele tra le cose, vedere. Però se è scusabile che agli albori e agli inizi della filosofia, cioè della riflessione razionale e concettuale sul mondo, ci possano essere atteggiamenti di questo tipo, quindi voglio dire, va bene che Talete dica l'acqua, Anassimene dica l'aria, Anassimandro dica l'Apeiron, che è già più interessante, ma insomma. Però, dopodiché, quando abbiamo visto, discusso, guardato e ci siamo resi conto che l'evidenza ci porta a comprendere a quali guai ci porta questo genere di atteggiamento, cioè al fatto di dover andare a presupporre questa essenza, questa essenza delle cose, questo nucleo originario, ci sfuggirà sempre. Non ha neanche senso dire che esista o che non esista, ma perdere tempo dietro al vagheggiamento di questa misteriosa sostanza, di questa qualità comune, eccetera, porta a una serie di... E ci si perdono molti, perché... anche Heidegger, come vi ha detto l'altra volta Amos, che pure era partito giustamente con le migliori intenzioni, eccetera, eccetera, di descrivere il superamento, però anche lui a che cosa pensava? A una sorta di superamento definitivo della, come dire, metafisica. È lo stesso atteggiamento di Hegel. Anche Hegel, quando formulò il proprio sistema filosofico e ci raccontò questa bellissima storia dello spirito che prima è bambino, poi non capisce, cazzeggia, fa un sacco di robe, eccetera, poi alla fine, di volta in volta, però è sempre più cosciente, eccetera, eccetera, eccetera, e poi alla fine arriva e si trasforma in spirito assoluto, totalmente autocosciente, in quel momento finisce tutto, finisce la storia, finisce... c'è questa... I marxisti presenti mi scuseranno, ma anche Marx fa un lavoro del genere, molto più calato, molto più concreto, molto, ma anche lui in qualche modo, certo, è più avvertito di Hegel, quindi dice a un certo punto finirà la preistoria, comincerà la storia, ma anche lì c'è una sorta, cioè lo spirito di Hegel ha cambiato nome, in Marx si chiama proletariato. Però anche nella visione di Marx il proletariato è una sorta di classe, diciamo, generale, cioè un prodotto della storia che però tende a trascendere la storia. Questo per dire che anche il fior di persone, mica sono tutti stupidi quelli che mi hanno detto, anzi persone con una testa, un cervello grosso, ma questa tentazione del pensiero dell'originario, o dell'originario o del definitivo, insomma, no? In inglese si capisce meglio la cosa, perché definitivo si dice ultimate, l'ultimo, l'ultimatezza è la definitività, è l'ultimo, dopodiché non c'è più nulla, non si potrà fare più nulla, ci sarà, la storia ha uno scopo, ha una, diciamo, direzione verso la quale tende, e erano molto più sagge tutte le culture orali, la gran parte delle culture orali, e la stessa cultura greca da questo punto di vista, compreso Platone, che non può essere accusato di un sacco di cose, ma non di finalismo. Platone non ha mai detto che la storia aveva una freccia e che bisognava andare. Platone ha detto, certo, le idee, eccetera, quello sì, ma che ci fosse la freccia, che la storia avesse un senso perché aveva una direzione, che pigliasse in un posto e andasse in un altro, questa cosa non c'entra con il pensiero greco. Tutte queste culture hanno sempre avuto un'idea molto più sana, molto più saggia del tempo come qualcosa di circolare, come qualcosa che ritorna. C'è un ciclo che non è solo un ciclo della, come dire, natura, ma che è più o meno la logica, diciamo, delle cose. E non è un caso che quando qualcuno alla fine, nella seconda metà del XIX secolo, ha voluto criticare profondamente e nel modo più conseguente possibile questa idea del finalismo e questa idea dell'università e della continuo, sia tornato a cose di questo tipo, l'eterno ritorno. Nello Zarathustra di Nietzsche, ma anche in altre opere, però insomma poi è nello Zarathustra che il concetto viene espresso nel modo più chiaro, si dice le stesse cose ritornano. Che le stesse cose ritornano, guardate, non vuol dire, non è la cosa stupida che tu dici allora tutto tornerà come prima, non vuol dire affatto che non c'è il cambiamento, c'è il cambiamento naturalmente, perché come ci ha insegnato tra gli altri Deleuze, in modo particolare nel suo libro Differenza e Ripetizione, la ripetizione appunto non esclude la differenza. Le cose che si ripetono sempre. Io ingenuamente, quando cominciai a cercare di capire questa cosa del terzo, dico, ragazzi, la figura buona non è quella di un circolo, di un cerchio tracciato su di un piano, è quella di una spirale che sta sulla superficie di un cilindro. Certo, c'è l'eterno ritorno, è ovvio, perché a un certo punto torno e ritorno, però X e Y, perdonerete il mio scientismo un po' ingenuo, X e Y sono le stesse, ma almeno la Z è cambiata, cioè la terza coordinata, la quota, ascissa e ordinata sono uguali, ma cambia la cosa. Vabbè, allora l'ho fatta lunga, ma insomma... Quando in una intervista del 1900, chi si ricorda, 70, il libro è uscito nell'81 credo, no nel 79 credo per la prima volta, un italiano, un tipo antipaticissimo, che si chiama Duccio Trombadori, suo padre era molto per lui, ma anche lui, Dio buono, presidente del PC, ma questa è la storia, va diciamo in Francia e però si mette lì, Foucault, che era uno, non è che era sempre gentile con tutti, lo accoglie e questo qua gli fa un'intervista lunghissima, esce un libro che nella prima, il cui primo titolo, non so se fosse Colloqui con Foucault, forse era un altro titolo, non me lo ricordo. Il quale poi viene ripubblicato, adesso quest'ultima edizione che ho io è Castelvecchi del 99. Questa fra le tante interviste, Foucault è stato probabilmente il filosofo del XX secolo più intervistato di tutti, per delle ragioni che partono proprio dalla storia della follia, adesso ne parliamo. Però in questo libro, per una strana insieme di dunque, Trombadori va lì, si capisce bene dal libro, con un atteggiamento anche, io avrei dato due schiaffi a questo punto, perché è veramente irritante. Il pensiero marxista ortodosso irrigidito, ma con tutte le sfumature dell'epoca, quindi c'è un po' di influenza del pensiero del 77 italiano, grosso modo, insomma, o anche francese, ma sempre tenuto alla come dire, debita, come dire, distanza. Foucault viene intervistato da questo Duccio Trombadori perché Trombadori lo reputa uno interessante, ma per le, come dire, in negativo, cioè perché come tanti altri hanno detto di Foucault e di tutto questo pensiero di quello di Clavelli, perché è il tipico esponente di un pensiero irrazionalista. L'accusa che viene fatta a questi qua è: tu sei irrazionale. Siccome rifiuti o tenti di criticare o tenti semplicemente di descrivere più realisticamente e meno agiograficamente di altri la razionalità andante, allora dico che tu non sei razionale, sei irrazionale. Secondo me è un modo un po' di fatti suoi. Però stranamente, come dire, Foucault, non so, si lascia andare, è un'intervista in cui per la prima volta in modo molto ampio lui parla anche della sua formazione, eccetera, eccetera. E quindi volevo leggere due pezzettini, questa qui ce l'avete, non so se abbiamo messo questo pezzo, però ci sarà nella difesa, se non c'è proprio questo pezzo, anche perché, allora, siamo proprio all'inizio dell'intervista. Trombadori dice: Quello che lei dice conferma l'eccentricità della sua posizione e in un certo senso spiega le difficoltà incontrate da critici, commentatori e esegeti nel tentativo di sistematizzare o di attribuirle una precisa collocazione nell'ambito del pensiero filosofico contemporaneo. È una domanda alla quale, certo che c'è una, come dire, cortesia di fondo, però praticamente vuol dire: ma che cazzo dice? Non si capisce che cos'è, né carne né pesce, no? Ci spieghi cos'è? E lui risponde, bellissima risposta: ma io non mi considero un filosofo. Ciò che faccio non è né un modo di fare della filosofia, né uno per suggerire ad altri di non farla. Per quanto mi riguarda, gli autori più importanti che mi hanno, non dirò formato, ma permesso di effettuare uno spostamento rispetto alla mia prima formazione universitaria, sono stati, guardate i nomi che fa, Friedrich Nietzsche, Georges Bataille, Maurice Blanchot, Pierre Klossowski. Quindi dice, vabbè, un, come dire, filosofo che sta nella storia delle filosofie, ma tutti sapete il disagio con il quale anche nei manuali liceali di filosofia viene trattato Nietzsche, perché non avendo un sistema filosofico come gli altri non si riesce bene a ognuno lo tratta in modo diverso. Poi c'è Georges Bataille. Bataille è stato una straordinaria figura mista, perché uno che ha scritto romanzi, ha scritto libri di filosofia, ha fondato una roba chiamata Collegio di Sociologia, è stato un militante politico, è stato nel surrealismo per un po', come tutti quanti, è stato cacciato da Breton, che era un peggio di Stalin da questo punto di vista, eccetera. È un personaggio complessissimo, diciamo, la cui, per essere proprio brevissimo, eccetera, si può dire un pensatore del limite, un pensatore dell'inusuale, una persona interessata sempre, sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista filosofico, alle esperienze che non sono riconducibili alla normalità, cioè al tradizionale incasellamento dell'esperienza, cioè le esperienze che fanno uscire, diciamo, fuori di se stessi. Esperienze, potremmo dire, recuperando l'etimologia del termine senza alcuna connotazione religiosa, estatiche, di estasi, ex stasi, stare fuori, ex, fuori di sé. Bataille, Blanchot è un altro a metà strada tra lo scrittore e il critico, diciamo, prosatore finissimo, però anche lui sempre attento al momento dell'assenza più che della presenza, al momento dell'indistinto più che del distinto. Anche Blanchot è uno interessato prevalentemente al momento in cui un testo smette di dire qualcosa di facilmente riconoscibile e comincia a dire non si capisce bene cosa, metà di una cosa, metà di un'altra, eccetera. E poi Klossowski. Klossowski è il fratello maggiore di Balthus, che voi forse conoscete più Balthus che non Klossowski, ma Balthus era Klossowski Junior. Pierre Klossowski, anche lui è uno come Bataille, grosso modo, interessato più lui sul piano delle, diciamo, è più famoso per questo tipo di perversioni sessuali, insomma, e anche Balthus, anche ovviamente il fratello, ma insomma Klossowski. Però autore, per esempio, di uno straordinario trattatello chiamato La Monnaie Vivante, la moneta vivente, in cui forse per la prima volta, o forse no, non lo so, insomma, spiega che la funzione del denaro è grosso modo la stessa della funzione della merda nel pensiero, nel sistema di Sade, di Sade. Anche la merda in Sade sarebbe una sorta di equivalente generale, come è il denaro, per, cioè qualcosa che si può scambiare con tutti e che non avendo di per sé un significato preciso può ricevere qualunque significato si voglia in qualche modo. Uno spazio bianco, una lacuna, avrebbe detto Lacan molti anni dopo. Quindi persone così, non c'è, tranne diciamo Nietzsche, che non c'è un filosofo. Tutti i personaggi, lo dice lui, che non erano filosofi nel senso stretto istituzionale del termine. Ciò che più mi ha colpito e affascinato in loro è il fatto che non avevano il problema di costruire sistemi, ma di compiere esperienze. Non avevano il problema di costituire sistemi, ma di compiere esperienze dirette, personali. All'università invece ero stato avviato alla comprensione di quei grandi edifici filosofici che quando ero studente si chiamavano hegelismo, fenomenologia, eccetera, eccetera. Trombadori non de morte. Lei parla della fenomenologia, ma tutto il pensiero fenomenologico è centrato sul problema dell'esperienza, ve la spiegavamo l'altra volta. E ad essa si affida per delineare il proprio orizzonte teoretico. In che senso allora se ne distingue? E Foucault come sempre è. L'esperienza del fenomenologo è al fondo un certo modo di organizzare lo sguardo riflessivo su qualunque aspetto del vissuto, sul quotidiano nella sua forma transitoria, per coglierne il significato. Nietzsche, Bataille, Blanchot, al contrario, cercano di giungere tramite l'esperienza a quel punto della vita che è il più vicino possibile all'impossibilità di vivere, al suo punto limite, per coglierne il massimo di intensità e al tempo stesso di impossibilità. Il lavoro fenomenologico, invece, consiste essenzialmente nel dispiegare tutto il campo delle possibilità legate all'esperienza quotidiana. Inoltre, la fenomenologia cerca di cogliere il significato dell'esperienza quotidiana per riaffermare il carattere fondatore del soggetto, dell'io. Tutto il casino che ha fatto Husserl, ve l'ha raccontato Amos l'altra volta, e fai le poche, e fai di qua e fai di là, ma alla fine dove arriva Husserl? Dice, beh, però è una variante del cogito cartesiano, detta in altro modo, detta in modo più acuto, in modo più raffinato, ma anche Husserl si arena, e vi ha raccontato anche Amos la difficoltà che lui prova nell'ultima grande opera che scrive, che è la fine delle scienze europee, nel rendersi conto in qualche modo di questo, perché Wagner insomma, Foucault che sto venendo dopo, perché è tutto più facile, ragazzi, per noi. Noi facciamo tanto i furbi, come scrisse Fontenelle per la prima volta nel Seicento in Francia, perché siamo nani sulle spalle di giganti, quindi cioè, vediamo più lontano soltanto per quello, non è che, però già comunque ci siamo sulle spalle dei giganti, saremmo disonesti se non raccontassimo agli altri quello che vediamo. Inoltre la fenomenologia cerca di cogliere il significato dell'esperienza quotidiana per affermare il carattere fondatore del soggetto, dell'io, delle sue funzioni trascendentali. Al contrario, l'esperienza, secondo Nietzsche, Blanchot, Bataille, ha piuttosto il compito, attenzione, di strappare il soggetto a se stessi. Vedremo nelle ultime lezioni, Amos vi parlerà di questo concetto foucaultiano, se de prendre de soi-même. Se de prendre, è difficile, strapparsi, cavarsi fuori da se stessi, riuscire a scardinarsi, riuscire a rivoltarsi, facendo in modo che non sia più tale il soggetto, o che sia completamente altro da sé, che giunga al suo annullamento, alla sua dissociazione. È questa impresa desoggettivante, l'idea di un'esperienza limite che strappa il soggetto a se stesso, la lezione fondamentale che ho appreso da questi autori. È questa impresa desoggettivante, l'idea di un'esperienza limite che strappa il soggetto a se stesso, quello che io ho ricavato da quelli, che mi ha spinto a fare in modo che, per quanto noiosi, eruditi fossero i miei libri, li ho sempre concepiti come esperienze dirette a strapparmi a me stesso, a impedirmi di essere sempre lo stesso. E adesso che abbiamo... siamo dopo qua, però non è che si capisce bene questa cosa, Leggendo l'histoire de la folie, non è che proprio perché c'è ancora molto, però da un certo punto di vista è il libro di Foucault in cui ci sono più citazioni di opere letterarie o di scrittori, eccetera, insomma, in cui c'è più riferimento alla letteratura. Successivamente poi Foucault farà alcune grandi, certamente anche nelle parole e le cose, non so se ve lo racconteremo, ci sono delle pagine bellissime su Don Chisciotte, E Don Chisciotte torna, qua c'è poco, però c'è meno. Don Chisciotte è chiaro che è collegato in qualche maniera col mondo della follia, però lui lo usa. E ci saranno, soprattutto nelle opere successive, si può sempre delle parole cose, alcuni grandi riferimenti all'arte figurativa, alle arti visive. Le parole e le cose si apre con 40 splendide, meravigliose pagine su Las Meninas di Velázquez. Io quando sono andato a vedere Las Meninas al Prado negli anni 90, non sapevo che praticamente ho fatto la stessa cosa che ha fatto Foucault, ho letto dopo quello che ha fatto Foucault. Foucault arriva lì, perché io sono andato lì, c'era una svenuta, quindi sono stato fuori per un quarto d'ora. Ve la dico così perché la sala è molto grande in cui c'è Las Meninas, chi l'ha vista lo sa, e Las Meninas, che è un quadro grandissimo, non so se è 3 metri per quello che diavolo sia, troneggia, campeggia in mezzo a questa parete, si vede anche, come dire, da fuori. Allora, siccome adesso va bene, non vuole citare le cose che dirà Poyamos, se le dirà meglio, se vuole dire, se non vuole dire, ve le dico io così. C'è tutta una roba che è un po' difficile fare, io l'ho usato senza capirci nulla, confesso, sono capotevole. Quando scrissi un libro che pubblicai nel 96 col titolo Il corpo rituale, c'è tutta questa lettura di Foucault de Las Meninas ripresa e probabilmente travisata. Se riscrivessi quel libro scriverei cose totalmente diverse adesso, però ormai l'ho scritto. Allora, con questa idea di Foucault in mezzo, che ci racconta la storia delle linee che collegano, per certi versi è un'analisi tradizionale dell'uso della prospettiva, però in realtà, siccome il quadro è molto complesso, voi sapete com'è, eccetera, queste linee a un certo punto scappano, fanno casino, creano un'esperienza limite, strappano in qualche maniera lo spettatore a se stesso. Questa signora era stata così strappata a se stessa che era pure venuta, non lo so se è nata così davvero. Fatto sta che io sono stato costretto per un quarto d'ora a... non potevo non guardarla, perché vedevo la signorina, ma come dire, la vedevo da troppo lontano. Non ero nel posto giusto, non ero nella famosa posizione simmetrica con il punto di fuga, eccetera, eccetera. Poi non mi sento, però comunque diciamo, non ero abbastanza vicino a quel quadro per poter ricreare totalmente dentro di me le cose che all'epoca mi ricordavo meglio perché lo stavo scrivendo o l'avevo già scritto. No, lo stavo ancora scrivendo, quindi era il 94 e il 95, il libro sarebbe uscito l'anno dopo, perché comunque mi aveva colpito questa roba, era proprio... E quindi ho vissuto un'esperienza, come dire, due volte lacerante. Perché volevo vedere Las Meninas più o meno nella posizione giusta, quella nella quale mi fosse possibile verificare o comunque andare a vedere se, come dire, la lettura di Foucault era plausibile o come si traduceva la sua, diciamo, lettura, che esperienza mi dava a me, no? Le due cose insieme. Io il quadro certamente l'avevo visto, è un quadro che conosco fino a quando sono un bambino, io quando... ero piccolo, dico un sacco di robe di altre fotografie, ma insomma, io quando ero piccolo ero la noia dei miei professori, perché non studiavo mai quello che loro dicevano, studiavo tutte altre cose. Perché avevo in casa una bellissima opera che si chiama Dizionario delle opere dei personaggi Bompiani, nella sua primissima edizione, che era una bellissima enciclopedia con un sacco di pre-prop molto grandi, tipo 28 volumi, no, forse un po' meno, ma con tutti i libri del mondo in qualche maniera. E poi gli autori, eccetera, però con un sacco di figure, pieno di illustrazioni, pieno. Quanto siamo? 7, 10. Grazie. Perdo tempo, lo so. Va bene, insomma, e quindi, diciamo, Las Meninas... Cosa? La signora era svenuta, tu non l'hai visto? No, allora, no, l'ho visto. Allora... Sì, allora, il succo, la conclusione è che quando l'ho visto sono rimasto ovviamente emozionato, ma avevo fatto troppa anticamera, questo è il succo. Cioè, l'avevo visto per troppo tempo da una posizione da cui non so. Però siccome io non sono abbastanza bravo quanto, come dire, Foucault, cioè avrei potuto, se fossi stato bravo come lui, riscrivere le cose di Foucault, come dire, mettendo a frutto questa esperienza, cioè spiegando che cosa vuol dire las meninas, che cosa vuol dire uno strapparsi da se stessi, diciamo, di secondo ordine, cioè strapparsi da uno strappo che c'è già stato. Allora, però in qualche modo, come dire, si capisce, se voi incrociate questa affermazione di Foucault nella sua intervista a Trombadori, con una lettura, naturalmente non solo della conversazione, ma un po', diciamo, di tutto il libro, capite qual era l'intenzione di Foucault e perché abbiamo scelto di parlare della storia della follia nell'ambito di una serie di incontri dedicati al tema della genealogia del soggetto. Perché il primo lavoro, il primo passo concreto che Foucault fa esattamente in questa, diciamo, direzione. Perché, vabbè, poi ci sono altre cose, adesso viene un po' lunga leggere tutto, insomma, ma ci sono altre interviste, insomma, in cui Foucault dice, ma sì, io che cosa avrei potuto fare? Avrei potuto, dice, questa non è una vera storia della follia, non è una storia personale, nel senso, cioè il concetto di follia, come, non, e questo spiega anche perché un sacco di gente si è incazzata, cioè questo è un libro che ha, all'inizio è stato praticamente ignorato, poi dopo per ragioni che sono ridicole. Perché la cosa che fa, come dire, Foucault è questa, cioè, il primo passo è questo, è chiaro. Dunque, Foucault questo lo dice anche, non mi ricordo più dove, Foucault in questi anni, quando era giovane, eccetera, lui in realtà la sua prima laurea non l'ha presa in filosofia. In filosofia lui ha il dottorato, ma lui era laureato in psicologia. E quindi vuol dire che da studente e poco dopo già laureato ha fatto anche un po' di esperienza clinica, quindi ha girato un po' per, se non per i manicomi, per le cliniche legate ai manicomi, eccetera, eccetera. Quindi si è reso conto, per sua, cioè, esperienza diretta, di qual era il rapporto medico-malato, eccetera, eccetera. E la cosa che gli è risultata, evidentemente già fino da quando era giovane, insomma, che non gli andava giù, e quindi sulla quale poi si è innestato, era questa, cioè era questo mito, questo racconto, questo... Vabbè, ce ne sarebbero modo a dire, non vi dico tutto quello che c'è in testa adesso, perché sennò andiamo troppo in là. Questa autonarrazione, questa autocelebrazione, insomma, che la psichiatria fa di se stessa, e che è una delle scene, diciamo, centrali del libro. Nel libro ci sono due cose, diciamo, centrali. Una, quella che vi ho messo delle pagine, è la storia del nipote di Rameau, e poi se c'è tempo un altro vi dico. L'altra è proprio quella della decostruzione, chiamiamola come detto, della contestazione, della revisione di questo mito. È un mito fondativo della psichiatria, e c'è una scena, a me la scena che mi è rimasta in mente particolarmente del libro è quella nella quale Pinel, che è l'eroe eponimo, il fondatore di questa, prima Pinel, poi dopo di lui, diciamo, Esquirol, però Pinel era, come dire, un medico, era il medico che si è trovato a, diciamo, lavorare per lungo tempo alla Salpêtrière, che era l'ospedale psichiatrico, ma in un momento in cui, nonostante ci fosse già stata la, come dire, separazione dagli altri tipi di malati, c'era ancora un bel guacciabuglio, c'erano i matti, c'erano ancora però un po' di malfattori, di gente un po' fuori. Allora lui va, a questo punto la storia, la agiografia, il mito racconta così, che Coppinel, per la sua grande bontà e anche per la sua grande intelligenza, eccetera, dice, ma non, questi sono uomini come noi, non si possono tenere così queste segrete, eccetera, eccetera, eccetera. Liberiamoli, togliamogli le catene, diamogli la, come dire, facciamogli sentire il calore di un rapporto umano, curiamoli finalmente, trattiamoli come dei malati. e questa cosa avviene durante gli anni della rivoluzione francese o poco prima, quindi durante la rivoluzione c'è, come dire, maturano le condizioni per fare questo grande salto, questo grande. Quindi diciamo il passo, la cosa come fondativa è riconoscere il matto come un malato, no? Prima il matto non era riconosciuto come un malato, e gran parte del libro spiega proprio questa cosa qua. Allora la scena che è una delle scene culminanti nel libro sta quando uno dei rappresentanti del Comitato di Salute Pubblica, che era l'organismo che all'epoca dirigeva la politica francese, insomma, più o meno quello che ci metteranno, quello che adesso la BCE ci metterà qua, diciamo, in Italia con Mario Monti nella parte di Robespierre, anzi ignoria verbo Tremonti forse nella parte di Saint-Just, non si sa però chi fa il terzo personaggio, che effettivamente era un personaggio veramente strano, anche io quando ero giovane, insomma, studiavo un po' di cose, ho usato un po' la versione francese, così, perché ero appassionato. Allora, il terzo personaggio si chiama Couton, e Couton è uno dei più terribili di questi, perché tra l'altro è un paralitico, cioè uno che sta su una sedia, c'erano già all'epoca le sedie a rotelle, erano spinte dagli uomini, però questo era uno dei personaggi politici francesi più forti. Ed è Couton che va alla Salpêtrière, perché Pinel ha scritto una relazione al comitato, dice: sì, voglio fare così, voglio liberare i matti, bla bla, perché sono esseri umani come noi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi c'è questo incontro fra appunto Pinel, immaginatevi la scena, no? Tra Pinel e Couton. Questo Couton arriva con la signora Hotel, lo portano, questo va a vedere, e sullo sfondo ci sono i matti, i folli, i pazzi della Salpêtrière, che ancora in catene, che gridano, che fanno casino, che fanno tutte le cose che fanno i matti, tutte quelle che la mia generazione ha visto nelle vecchie foto dei manicomi italiani, in particolare quelli di Gorizia e di Trieste, sono i due manicomi nei quali ha lavorato Basaglia negli anni 60 e dai quali nacque la grande rivolta della cosiddetta antipsichiatria, anche se Basaglia rifiutò sempre di considerarsi un antipsichiatra. Parleremo anche, diciamo, di questo. Quando Couton vede questa cosa, parla con Pinel, vede Pinel così, ovviamente Pinel perora e parla appassionatamente in favore della sua causa e del suo collettivista, ma Couton rappresenta la durezza anche il realismo del pensiero politico. E quindi la battuta con la quale Couton piglia e se ne va, gli fa: dottore, io dottore non sono, no, cittadino Pinel, dottore, cittadino Pinel, io non so fra i due chi sia più matto, se lei o questi che sono qua. E non credo che il suo progetto avrà una grande storia. Però in nome degli ideali della rivoluzione faccia tutto. Si rimette sulla sua sediolina e lo portano via. Credo di aver romanzato un po', non è proprio così, ma insomma se volete la riprendete, c'era una scena di così. Questo è un pezzo, è la scena culminante di questa grande cosa che è. Allora, l'intento del libro, ha vari intenti il libro di Foucault. Allora, il primo intento è di raccontare come sono andate davvero le cose, cioè smascherare o comunque mettere in crisi, decostruire, discutere, questo racconto, cioè questa, diciamo, narrazione, mostrare che questa narrazione è l'esito di una serie di passaggi precedenti, ma di per sé non vuol dire, non significa che, che sia un modo adeguato di, diciamo, descrivere le cose. Questa è la ragione per la quale nel 61-62 ovviamente molti psichiatri, molti psicologi lessero questo libro e lo misero da parte disgustati, perché questo libro naturalmente non c'è solo questo, perché attorno a tutto questo Foucault descrive le continuità e le discontinuità del modo in cui la cultura occidentale aveva visto la follia, Adesso utilizzo un breve riassunto fatto da Frédéric Gros, che è uno dei curatori, insomma uno studioso di Foucault molto importante, ha curato diversi dei corsi al Collegio Santo, eccetera, e che è appena uscito, perché ragazzi è il cinquantenario della pubblicazione della Nascita, quindi Moist, è appena uscito un numero speciale di Out Out, che è una rivista filosofica diretta da Peraldo Rovatti, che è un'altra persona che in Italia ha fatto moltissimo per far conoscere Foucault e per anche in tempi. E quindi c'è questo breve cosa di, ci sono due inediti di Foucault, e è un numero dedicato proprio al Foucault e alla storia della follia. Allora, Gros dice, in pratica nella storia della follia ci sono, vengono presentate più o meno in successione cronologica, però non in maniera così, diciamo, precisa, eccetera, tre modi diversi di vedere la follia da parte del, diciamo, dell'Occidente, da parte della cultura occidentale. La prima, dice lui, è quella della follia come erranza. All'inizio del libro, nel primo capitolo della prima parte, ci spiega Foucault che per tutto il Medioevo e grosso modo sino al Rinascimento, il folle non solo non era considerato un malato, ma non era considerato poi neanche così socialmente pericoloso. Certo, era un tuo bizzarro, andava un po' tenuto a freno, ma in qualche modo, diciamo, qual era il dispositivo, diremmo, per usare un termine che all'epoca Foucault non usava ancora, ma insomma, credo che sia corretto, qual era il dispositivo usato dalla società medievale? Lui all'inizio, in questo capitolo, che è molto bello, insomma, Foucault contrappone il modello del lebbroso a quello del folle. Allora, il lebbroso, la lepra, sì che veniva considerata una malattia e veniva considerata pericolosa per la società, quindi il lebbroso veniva rinchiuso, veniva segregato nel lazzaretto. Questa cosa tornerà poi in Nascita della Clinica, ci sarà anche in Sorvegliare e Punire, insomma è una delle cose che tornano più spesso nell'opera di Foucault. Quindi questo è il modello internamento, il modello reclusione, esclusione, ti escludo dalla società, cioè ti metto in un posto dove non puoi fare danno, dove sei controllato, dove, e poi spiegherà nell'opera, come dire, successive, che è da queste esperienze che nasce il cosiddetto modello disciplinare, cioè l'imposizione della disciplina. Il folle invece è uno, cioè, no, vattene pure in giro, passa da un posto all'altro, visita i vari paesi, gira per i paesi, talmente tanto, dice, che questa è poi la prima cosa, c'è questa famosa nave dei folli, la Narrenschiff. Ora, la Narrenschiff è, qui c'è stata polemica della Madonna, moltissimi hanno accusato Foucault di aver trasformato una finzione letteraria in un fatto reale. Effettivamente noi non sappiamo bene se queste navi ci fossero davvero o no. Sta di fatto però che un tipo, di cui non mi ricordo il nome, scrive un'opera letteraria chiamata appunto Narrenschiff, un tedesco, all'inizio del 500, in cui racconta e spiega questa nave che gira per i fiumi della Germania e della Francia, quindi per il Reno, fondamentalmente per un po' di canali, diciamo, fluiti, portando questo carico di pazzi, andando di qua e là, pigliandone su qualcuno, scaricandone qualche altro, eccetera, eccetera. Quindi questa è certamente questo modo di vedere la follia configura la follia come un disordine, come ovvio, c'è del disordine. E non è vero proprio che non sia vista del tutto come un pericolo, come dire, però il pericolo è molto sullo sfondo, diciamo, il folle viene visto come pericoloso più che altro perché è il simbolo di un possibile, diciamo, disordine cosmico, come quando Amleto dice nell'omonima tragedia di Shakespeare, time is out of joint, il tempo è andato fuori dai cardini, E poi Philip Dick prende questa frase e la usa come titolo di un libro negli anni 1960, time is out of joint, il tempo è andato fuori dai gangheri, è uscito dai cardini, no? Allora, quindi questa è la follia come disordine cosmico. Poi nel passaggio fra XVI e XVII secolo, quindi fra 500 e 600, avviene un rovesciamento, e quindi ci spiega Foucault, la follia viene vista non ancora come una malattia, ma questa volta davvero come un pericolo. E quindi che cosa si fa, ci spiega lui? Si prende il vecchio modello dell'internamento, che era quello applicato ai lebbrosi, e lo si applica ai folli. E quindi c'è questa roba che è il grande internamento. Nel 1650, non mi ricordo in che anno, viene costruito a Parigi l'Hôpital Général. I francesi hanno due modi diversi per dire ospedale: uno è l'hôpital e l'altro è Hôtel Dieu, è casa di Dio, ma insomma questa cosa si chiama hôpital, cioè ciò che la casa per ospitare, nella quale Luigi, non mi ricordo più chi era, nel 600, cioè penso Luigi XIV, se per il Re Sole, fa un ruolo che c'è nell'appendice al libro Foucault, riporta gli statuti di questa opera generale, che è destinato a raccogliere attenzione. I matti, è questa mossa che lui chiama il grande internamento, no? I matti, ma non vengono internati soltanto i matti, chi viene internato? Vengono internati tutti gli amici, tutti quelli che un tempo vagavano, la nave dei folli. La nave dei folli, c'erano i folli che vagavano, ma non erano solo i folli naturalmente che vagavano, c'erano un sacco di altre persone che vagavano. Chi vagava fra 500 e diciamo 600? Nel Medioevo meno, ma nel 500 e 600 cominciano a vagare per le strade d'Europa anche tutte quelle strane figure di artigiani che hanno perso il lavoro perché è venuto fuori un modo di produrre nuovo. Per esempio, non si tesse più con il telaio a mano, ma ci sono delle macchine automatiche più o meno, per cui una sola persona può fare il lavoro di 10-20 tessitori tradizionali, in cui le scarpe non si fabbricano più su misura a mano, ma ci sono delle macchine che le costruiscono più o meno in serie ancora. Insomma, sta nascendo il capitalismo, inutile farla lunga. Il capitalismo nella sua prima fase, cosa? Sì, gli esuberi, certo. Gli esuberi, allora poi dopo molti di quelli finiscono operai nelle fabbriche. Nella prima fase no, nella prima fase, per esempio in Inghilterra, nelle fabbriche i capitalisti preferiscono metterci altre persone, ex carcerati, ubriaconi, gente che gira, c'erano le esattamente più o meno nello stesso modo in cui venivano reclutati gli equipaggi per la Marina Britannica, c'è un libro bellissimo che racconta questa storia, non ricordo mai né il titolo né gli autori, ma poi ve lo dico, è meglio lo trovo, però è molto bello lo stesso, anche se io non mi ricordo, in cui queste storie vengono tutte raccontate proprio all'inizio. Non è un libro neanche di due rivoluzionari, di una persona sola, non è né un marxista né un rivoluzionario, ma gli equipaggi delle flotte venivano in larga misura, la ciurma, non ovviamente gli ufficiali, era la gente che veniva dalla nobiltà o dalla borghesia eccetera, ma la ciurma, le truppe venivano, erano presente qua, c'erano degli ufficiali reclutatori che si mescolavano di notte nelle bettole londinesi per trovare quegli ubriachi. Se non c'erano troppi ubriachi, li facevano bere loro. Una volta che l'ubriaco era veramente steso sotto il tavolo, se non si stendeva sotto il tavolo, l'ufficiale aveva sempre in tasca una bella caviglia, cioè questi bei mazzuoli di legno duro, gli dava un cocchetto in testa, e dopodiché questo qui, c'erano le squadre che li trasportavano a bordo delle navi. Questi tutti dormivano, si svegliavano, mi presi, dove sono? Non sono più nella mia camera, né nell'albergo, né nel vicolo di Londra, sono in mare aperto. Questi erano così. In modo simile venivano reclutati gli operai per le fabbriche, persone disperate, persone che però non volevano lavorare magari. Veniva, tutta questa cosa che il capitalismo avrebbe abolito la schiavitù, perché prima c'era il lavoro coatto, è vera fino a un certo punto, giuridicamente è così. Ma specialmente nelle primissime fasi, il lavoro nelle fabbriche è un lavoro coatto, insomma, no? Allora, comunque, questo riguarda molto lateralmente, cioè in parte c'è anche questo, ma insomma. Allora, la cosa fondamentale comunque è che in questa seconda fase, questo è un altro modo di vedere la follia, È qua che i folli vengono, che come dire, comincia questo binomio, cioè mentre prima, mentre nel modo medievale e rinascimentale di pensare alle cose non c'era, diciamo, il folle non è che di per sé negasse la ragione, semplicemente la usava in un altro modo o non era interessato al problema. Il problema ragione o non ragione non si poneva per il folle. Adesso invece comincia a porsi. Chi è il folle? La, diciamo, risposta è: il folle è colui che è fuori dalla ragione. Ecco spiegata l'origine del primo titolo, Folie et de raison. De raison, de raison è una cosa che non c'è, credo, sostantivo neanche in francese, e quindi anche in, non so, non credo ci sia, credo sia un neologismo. Quindi è stato, si usa un neologismo anche in italiano dal punto di vista del sostantivo, però, perché invece il verbo c'è, sragione, eh? La sragione non si usa, ma sragionare si dice, eh? ma tu sragioni. Allora, il sostantivo, ragione e sragione. La follia è il regno della sragione, quindi è qualche cosa che, se noi pensassimo, allora, come dire, il pensiero dialettico hegeliano marxista farebbe presto, perché farebbe raison, de raison, ragione, sragione, tesi, antitesi, ci sarebbe qualche cosa poi che le mette insieme e che fa la sintesi. Siccome invece Foucault non è un pensatore dialettico, aborrisce, come tutti quelli che vi ho parlato, la dialettica, vuole semmai fare coesistere gli opposti in modo molto più libero, cioè senza legarli in questa unità forzosa e forzata con la quale Hegel voleva, diciamo, legare le cose. E quindi, diciamo, questo binomio ragione-sragione in qualche modo serve per cosa? E ci spiega perché, ecco perché la figura del folle, con il grande internamento, con l'inizio vero e proprio della modernità, cioè con il Seicento, è implicata nel processo di formazione del soggetto. Perché se il soggetto, come ce lo ha indicato Cartesio, è il, come dire, insieme la gente, il titolare e contemporaneamente il prodotto di una serie di operazioni razionali, è la ragione che ci rende soggetti, eh? Gli animali non sono soggetti, perché? Perché non hanno la ragione, condividono un sacco di cose con noi, hanno la vita, eccetera, ma non hanno un cervello così sviluppato, soprattutto non hanno una funzione così, così potente, che è quella della rappresentazione, nelle parole e le cose, il concetto avrà ancora maggiore, sarà sviluppato in modo ancora maggiore, e quindi è la ragione. Quindi la ragione è quella che ci permette di capire meglio che cos'è la ragione, la negazione della ragione. Se io vado a studiare, vado a vedere, se io isolo, cioè isolare il folle, recluderlo, internarlo, bollarlo, come anche lui agente insieme e prodotto della ragione, cioè di questa, di questo contrario della, diciamo, ragione, permette di capire meglio chi è il normale. Non ci sarebbe un normale, detto in altri termini, se non ci fosse un folle. Non ci sarebbe la normalità se non ci fosse la follia, non ci sarebbe la ragione se non ci fosse la ragione. Quindi abbiamo questo intreccio, da un lato diciamo, a livello, come dire, sociale, di fortissima repressione, l'internamento, i cittadini folli, li si incatena, eccetera, eccetera, insieme con i vagabondi, con gli omosessuali, che all'epoca non erano ancora neanche così tanto perseguitati, ma insomma insieme con tutte le altre categorie di persone che non possono essere assimilate, insomma, che non sono, detto in termini un po' economicisti, che non sono utili allo sviluppo economico del paese, che non lavorano, insomma, che non vogliono, che non possono lavorare. Che cosa, diciamo, qual è? Allora, in questo caso non c'è più la follia come erranza, cioè la follia è questa figura, questa condizione di instabilità, in cui la persona non è stabile, erra, va in giro, nomade, eccetera, eccetera. No, in questo caso viene resa stabile a forza, perché viene, diciamo, rinchiusa. Ma che cosa ci segnala? La figura del folle in questa nuova visione è quella che ci segnala una separazione. La separazione della ragione dal suo opposto, che è come dire del giorno dalla notte, insomma, in qualche modo. E il côté della appunto follia è in qualche maniera un côté, un lato notturno. Ma dopo un secolo e mezzo, le date che dà Coso sono 1650-1690, quindi circa un secolo e mezzo, tra la fine, negli ultimissimi anni del Settecento, con la rivoluzione e siamo nell'Ottocento, comincia una storia invece nuova per il folle. Il folle viene finalmente riconosciuto come malato. Che cosa vuol dire riconoscere la follia come una malattia? Da un certo punto di vista come dire, viene meno questa pertinenza del folle nella diciamo definizione del concetto delle pratiche di ragione. Non è più così importante il tema della, diciamo, ragione. Quello che è più importante è in qualche modo il fatto che l'esperienza, in qualche maniera la follia viene riconosciuta dal nascente pensiero psichiatrico, Pinel è il fondatore della psichiatria, da un certo punto di vista c'è un filo che unisce Pinel, Charcot e Freud, insomma, no? Nel corso dell'Ottocento c'è questo, come dire, sviluppo per cui dalla psichiatria poi nasce questa sua costola un po' bizzarra e un po' più fantasiosa che è la psicanalisi. Allora, quindi, da un certo punto di vista, riconoscere la follia come una malattia significa in qualche modo riconoscerla come esperienza, questo sì. Cosa che nell'epoca classica, è l'epoca del 600-700 in Francia, perché si chiama la storia della follia nell'età classica. L'età classica, noi per classico intendiamo il mondo antico, i francesi intendono il loro secolo d'oro, che è il 600, in cui hanno avuto, in cui effettivamente, diciamo, fra il 500 e il 600 dal punto di vista culturale in Europa c'è un cambio alla guardia. L'Italia, che è stato il paese più all'avanguardia nei due secoli precedenti, 400 e 500, cede il posto alla Francia, si considera l'erede del mondo classico e quindi anche dell'Italia, quindi l'epoca classica, l'age classique. Quindi riconoscerla come esperienza, ma ciò che viene riconosciuto come esperienza, cioè questa cosa dell'esperienza, che cosa implica? Implica che tipo di esperienza è quella del folle? È un'esperienza, e qui torniamo a Cartesio, perché c'è un pezzo del testo di cui io vi ho parlato nella prima lezione di Cartesio. Ad un certo punto, nella prima meditazione metafisica, Cartesio passa in rassegna diverse figure, cioè un paio soprattutto di figure o di esperienze, le quali potrebbero essere un buon simbolo del dubbio, cioè di ciò che ci fa dubitare, per esempio, di ciò che occorre di noi, eccetera, eccetera. E parla di due esperienze, la follia e il sogno. Però rapidamente, e su questo discute Foucault nel suo libro, rapidamente Cartesio liquida il sogno, liquida la follia, e dice, adesso cito a memoria, dice sì, è vero, dice, perché effettivamente potrei fare, dice Cartesio, come quelli che appunto credono di essere un re mentre sono i mendicanti, sono le cose, eccetera, eccetera. O come quelli, dice, fa due esempi, due strani, dice, come quelli che credono di avere il corpo di vetro. E ve la dico perché il punto fondamentale veramente è proprio questa cosa del corpo di vetro. Quindi, quando parla della follia, Cartesio la identifica con due figure. Quello che è convinto di essere re e quello che è convinto di avere un corpo, diciamo, di vetro. In entrambi i casi ma più ovviamente nel secondo che nel primo. Allora, e poi però prima vi dico di finisco di dire di Cartesio, però Cartesio rapido dice: ma questi sono dementi, ma questi sono pazzi. Cioè sì, potrei pensare così, potrei avere un dubbio, ma questi sono pazzi, e sarei pazzo anch'io se andassi lì e se la pensassi come loro. E rapidissimamente chiude questa cosa e dice il sogno invece, e sul sogno passa, spende molte più pagine, perché il sogno gli pare un'insidia per la sovranità del soggetto che lui vuole costruire, molto molto maggiore che non il folle. Il succo del discorso di Foucault nella storia della follia per quanto riguarda questa cosa di Cartesio è questo, dice la follia nell'epoca classica viene sì considerata dentro questa cosa ragione e sragione, però viene fortemente, come dire, depotenziata, perché non viene considerata neanche un partner possibile, non viene neanche convocata alla discussione per stabilire se c'è la realtà oppure non c'è, se io sono il soggetto oppure no. Questa cosa, ve lo accenno soltanto, non ho il tempo ovviamente di fermare, però diede origine a una abbastanza aspra polemica tra Foucault stesso e un filosofo un poco più giovane di lui, che aveva seguito già dei corsi con lui quando Foucault era molto giovane, che si chiamava Jacques Derrida. C'è una grossa polemica. Derrida scrive un testo che si chiama Cogito e storia della follia, che è un attacco spietato al libro di Foucault, scritto pochi anni dopo, 62-63, ha fatto una conferenza e poi il testo di questa conferenza è stato pubblicato. E Foucault risponde con un testo che è in appendice, perché lo mette nella seconda edizione del 72, che ha un titolo bizzarro, è Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco. La cosa deriva dal fatto che è sempre il testo di Cartesio delle meditazioni metafisiche, perché diciamo questo viaggio di Cartesio tra la follia e il sogno comincia esattamente come dice: ma io sono qui, ho questo corpo, ho in mano questo foglio su cui sto scrivendo, sono di fronte a questo fuoco, evidentemente fa freddo, forse è notte, e Cartesio scrive di notte. Il mio corpo, ora, per una serie di bizzarre cose, questa ve la dico soltanto così, il mio corpo, questo foglio, questo fuoco, per uno che non sa, per esempio come non sapevo io la prima volta che lessi la storia della follia, questa cosa è, ci arrivai subito dopo quando lessi la cosa, è un titolo terribile perché in qualche maniera allude a una sorta di radicalità dell'esperienza, un po' fenomenologicamente, insomma, anche se il corpo di Foucault è molto più radicale del Leib di Husserl. Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco, ci sono tre cose, tre immagini di fila che non vogliono dire questo poi, però il fatto che siano, che sono, c'è un corpo, quindi c'è qualcosa, qualcuno, qualcosa che scrive, c'è un foglio, quindi c'è, per Derrida l'importanza che ha la scrittura nel sistema di Derrida, nel sistema filosofico di Derrida è forte, e poi c'è un fuoco, c'è qualcosa che brucia, che potrebbe bruciare tutti e due o che minaccia tutti e due. Non ve la faccio lunga, il succo della polemica tra Derrida e Foucault è proprio nel foglio. Derrida sostiene che non c'è modo di uscire dal testo, e mentre invece Foucault gli dice no, c'è modo, e come se non c'è modo di uscire dal testo? Che cosa vuol dire per Derrida che non c'è modo di uscire dal testo? Che l'esperienza filosofica deve essere un'esperienza fortemente formalizzata, ci devono essere una serie una rete, un'armatura bella, solida e stabile di concetti che sia trascrivibile, che sia traducibile, che sia messa sopra un foglio. Foucault dice no, la filosofia non è questo, la filosofia è capire gli stati limite, è parlare dell'esperienza, non è parlare qualsiasi concetto che non abbia la sua radice, che non sia radicato fortemente nell'esperienza, che non mi dia la possibilità di fare un'esperienza che mi cambi, non è buona filosofia. La buona filosofia è quella nella quale il soggetto, o quello che temporaneamente è il, diciamo, soggetto, nel conoscere il mondo cambia se stesso. Se non fa questa operazione, questo è il filo conduttore probabilmente di tutta l'opera di Foucault, ma emerge fortissimamente nelle ultime opere, quindi sarà uno dei centri di cui vi parleremo, Amos e io, penso prevalentemente Amos, nelle ultime diciamo lezioni. Però c'è già in nuce, c'è già in questa, come dire, polemica, no? Ed è la supremazia astratta e anche un po', insomma, detto in altri termini, e in insomma soldoni, Derrida è un filosofo, diciamo, sistematico, c'è un sistema della filosofia derridiana, c'è il primato della scrittura, ovviamente c'è una visione della scrittura molto più ampia, come c'è McLuhan, eccetera, c'è la scrittura addirittura vista come diciamo potenza originaria, anteriore e più fondamentale della parola parlata. Quindi un punto di vista totalmente diverso da quello degli studi che noi chiamiamo mediologici oggi, che hanno la loro origine in, come dire, McLuhan. Ma la cosa fondamentale è che in Derrida il soggetto non viene scosso più di tanto, non viene ebranlé, si presenta, certo, il soggetto derridiano è un soggetto multiforme, ha molte facce, si presenta, ma non va incontro, non è il soggetto di Foucault. Il soggetto di Foucault è il soggetto che è prodotto di una storia e che nel momento in cui prende in mano questa storia, automaticamente, cambiando il mondo, cambia se stesso. Cambiando il mondo o anche soltanto guardando il mondo. Non esiste modo per Foucault di conoscere realmente, insomma, detto ancora più in soldoni, ancora proprio già si comincia con la storia della follia a delineare. In Foucault c'è un primato della prassi, delle pratiche. Sono le pratiche che fondano, sono queste delle cose mentali, non il sistema di concetti. Il sistema di concetti, a modo suo, eccetera, era esattamente quello che aveva scritto Hume 2 secoli prima nel Trattato sulla natura umana. Le idee non sono altro che impressioni, non sono altro che la concrezione di sensazioni. Hume non aveva elaborato una teoria così ampia e così, un punto di vista così chiaro sul cambiamento del soggetto, però aveva posto le premesse tanto per Kant quanto, per certi versi, per, diciamo, la linea, chiamiamola Nietzsche, Foucault, ci potremmo mettere dentro pure Deleuze per un trattino, però non troppo. Allora, che cos'è questo terzo? Quindi dopo la follia come erranza, la follia come separazione tra giorno e notte, ragione e, diciamo, ragione, questo modo di vedere la follia indica un'altra cosa, indica una sorta di rovesciamento del soggetto nell'oggetto o dell'oggetto nel soggetto. La follia da questo punto di vista viene più o meno riconosciuta e poi dopo repressa, certo, ma come quell'esperienza che consente di esperire le zone di limite tra soggetto e, diciamo, oggetto. Nella follia non solo non è stabile il mondo, non è stabile il confine tra io e mondo, non è stabile il confine tra soggetto e oggetto. Ecco la storia del corpo di vetro. Il corpo di vetro è in qualche maniera una bella metafora, un'immagine, un simbolo per capire, ma com'è, il mio corpo non è qualche cosa di, virgolette, naturale, può essere qualcosa di artificiale. Tutto questo si apre una serie di cose. Se avessi mai riflettuto bene a queste cose tanti anni fa, quando cominciai a studiare la questione dei robot, l'avrei affrontata in maniera totalmente, diciamo, diversa. Allora, chiudiamo rapidamente. Già in questa opera si vede quindi come Foucault, attenzione, adesso vi dirò anche i limiti nei quali, In questa opera c'è una rudimentale archeologia del sapere, però è un'archeologia fatta come? Ancora Foucault in qualche maniera scava, va a cercare quello che c'è sotto. C'è il racconto mitico della nascita della psichiatria, la bontà, l'eroismo di Pinelli, lui dice no, sotto a questa cosa, dietro a questa cosa c'è qualche altra cosa. Allora, questo è l'unico libro che potrebbe far, far classificare Foucault all'interno della categoria dei filosofi del sospetto, diciamo, insieme con Marx e con Freud. I filosofi del sospetto sono quelli che dicono, ah, non è così, non me la conti giusta, dietro c'è qualcosa, sotto c'è qualcosa, c'è una verità che sotto sì, che c'è, che tu non mi vuoi dire, tu me la mascheri, io te la troverò. E in effetti, questo Foucault lo dirà varie volte anche dopo, nella sua vita, se non in tutto il libro, ci sono molti passaggi del libro in cui che fanno pensare a una al fatto che Foucault pensi che ci sia una specie di realtà originaria della follia, cioè che la follia abbia una sua verità che si possa più o meno raccontare, e che lo scopo del libro, lo scopo del suo studio sia quello di rivelare questa verità della, come dire, follia, che sarebbe qualcosa di stabile, qualche cosa di inerente alla verità. Allora, detta ancora più in soldoni e in modo un po', devo dire, anche forse diciamo irritante o insomma, poco generoso nei confronti di Foucault, nella storia della follia c'è ancora, io penso, un residuo essenzialista. Foucault sembra ritenere che c'è un'essenza della follia, nonostante il fatto, tutto questo è contraddetto però invece da che cosa? Dalla grande quantità di materiale che usa. Se togliete il pezzo su Foucault e il pezzo su, scusate, Diderot, e se togliete la lunga analisi centrale molto bella sul nipote di Rameau, il nipote di Rameau, ragazzi, informatevi un po' su chi è, perché è una bellissima opera di Diderot, che io non avevo letto, che ho letto dopo, che ho letto la seconda, per la terza volta, quarta volta, la storia della follia. Rameau, dice lui, cioè il nipote di Rameau, intanto è un'opera postuma, che non venne mai pubblicata mentre era in vita, Diderot venne pubblicata negli anni 30 dell'Ottocento, e nella quale Rameau, questa è la, e nella quale Diderot, questa è la lettura, diciamo, andante, fa della critica sociale. In realtà il nipote di Rameau, che è una specie di scroccone, di pitocco, di buffone che va in giro per le case, eccetera, si esibisce, fa dei numeri, insomma, di pura se no, sa anche suonare, è ovviamente nipote del più grande musicista del Seicento, che è appunto Rameau, che però era stato appena negli anni di Diderot, diciamo, di veniva scalzato, Max mi correggerà, da Pielo Lulli, che è l'esponente della nuova, ok, mi dicono così, mi sono informato bene, non ho fatto figuracce, però questo qua, nipote, il nipote di Rameau, insomma, è una sorta di figura di transizione, è qualche cosa, secondo la lettura corrente, che ha insieme dei pezzi del vecchio e del nuovo ordine, dell'ordine, diciamo, dell'ancien regime e del mondo che sta per nascere. È stato scritto 20 anni prima della Rivoluzione Francese, in grosso modo, questo libro. La lettura che ne dà Foucault, se vi leggete, se avete la bontà e la costanza di leggere le pagine che vi ho, come dire, mandato, vedete che invece Foucault ne fa un'altra cosa, è sempre una figura limite, anche secondo Foucault, ma non è più il limite, cioè non è più una, esagero, banale figura sociale. È una, come dire, figura che denota il trapasso, cioè, come dire, è l'ultima volta nella quale ragione e sragione ancora dialogano in qualche modo, secondo, perché in questa sua figura coesistono sia la ragione che la ragione. Se togliete queste due cose, qualche vago riferimento ogni tanto a Nietzsche, il nome di Nietzsche forse compare qua, voi non trovate il nome di un filosofo in questo libro, e questa è la cosa per cui è difficile dire che questo è un libro di filosofia, perché in realtà non è neanche un libro di storia, perché non fa la storia come la fanno gli storici, però il materiale che usa è quello che usano gli storici. Tutta la roba che appunto un editore italiano aveva incautamente tagliato spesso nella prima edizione, che qui Calcini ci ha restituito totalmente, sono dei trattati medici del 500, 600, 700, letteratura tecnica, no? Insomma, non grandi voli pindarici filosofici. Foucault è in grado, cioè Foucault vuole esattamente ricostruire quel tessuto connettivo, ma non delle idee, non gli interessa neanche tanto per le idee, ma per tutti questi movimenti molecolari, tutte queste, diciamo, chiamiamole posizioni, atteggiamenti, modi di pensare, anche i riflessi che si sviluppano dentro la società e che sono quelli che sono la base, che sono la materia prima, che sono la staff con la quale si fa, si formano i concetti, si fa la cosiddetta filosofia. In altri termini, sono dei manuali pratici, sono delle pratiche, sono dei libri di pratica. Foucault ci insegna in questo libro forse un po' troppo la faccia segreta e come dire, nascosta, o la logica che sta dietro alle pratiche, ma sono le pratiche che fondano i concetti. Questa cosa è già acquisita fortemente, quindi l'archeologia già nella misura in cui viene messa per la prima volta in pratica in questo lavoro figura e viene presentata e funziona. Non, quindi non si può dire che questo sia un libro di storia delle idee, non fa storia delle idee, è una storia delle pratiche e di come le pratiche costituiscono lo strumento poi o quella sorta di configurazione comportamentale, perché questo è, che è il soggetto, e lo costituisce. Qui per la prima volta troviamo quindi una critica degli universali antropologici, e questo per chiudere ve lo leggo, perché ancora una volta è un testo più tardo, non è un testo, però è un testo buffo, è uno degli ultimissimi testi scritto nell'82, ma c'è una storia buffa e ve la racconto perché è molto divertente. All'inizio degli anni 80 chiedono a un allievo di Foucault, che era François Eval, di scrivere una voce Foucault per un Dictionnaire de Philosophe che avrebbe dovuto uscire nell'84, che in effetti esce poco dopo che Foucault muore. Eval ne parla con Foucault e Foucault gli dice: ma dai, dice, vabbè, bravo, grazie, ma guarda, me la posso pure scrivere io. Me la scrivo io, naturalmente sotto pseudonimo. E quindi questa voce viene consegnata, firmata Maurice Florence, Michel Foucault, Maurice Florence, e quindi è Foucault che parla di se stesso. Sono quattro brevi pagine, vi leggo un pezzo solo, che lui parla delle cose, eccetera, eccetera, ed espone tre, mi sembra, regole di metodo, che vi leggo rapidissimamente, che sono già all'opera, grosso modo, nella storia della follia. Certamente, come sempre, questo è un testo più tardo, quindi, ma noi spesso salteremo fra lì, insomma, perché non ha senso. Adesso Foucault è morto, quindi disponiamo di tutta la sua roba e possiamo fare queste operazioni. La prima regola di metodo per questo genere di lavoro è perciò questa: aggirare il più possibile gli universali antropologici. Aggirare il più possibile gli universali antropologici. Ovviamente anche quelli di un umanesimo che fa valere i diritti, i privilegi e la natura di un essere umano come verità immediata e atemporale del soggetto, per interrogare questi universali antropologici nella loro costituzione storica. Bisogna anche capovolgere il procedimento filosofico che risale ad un soggetto costituente a cui si chiede di rendere conto di quello che può essere ogni oggetto di conoscenza in generale. Si tratta al contrario di ritornare allo studio delle pratiche concrete con cui il soggetto è costituito nell'immanenza di un ambito di conoscenza. Ancora una volta bisogna fare attenzione, rifiutare il discorso filosofico a un soggetto costituente non significa fare come se il soggetto non esistesse e deluderlo a vantaggio di una oggettività pura. Questo rifiuto mira a fare apparire i processi propri di un'esperienza in cui il soggetto e l'oggetto si formano e si trasformano l'uno in rapporto all'altro e l'uno in funzione dell'altro. Non c'è la stupida o che c'è a volte un po' in Lacan, in certi pezzi di Lacan, il vuoto, il buco, l'assenza, no, che cazzo di assenza, c'è il soggetto, però non è stabile, non è un universale antropologico, si costituisce, è un prodotto della storia, si costituisce in rapporto al suo oggetto. I discorsi della malattia mentale, della delinquenza, sorvegliare e punire, o della sessualità, la volontà di sapere in poi, dicono quello che è il soggetto soltanto in un certo gioco di verità molto particolare, ma questi giochi non sono imposti al soggetto dall'esterno secondo una causalità necessaria o delle determinazioni strutturali, aprono un campo di esperienza in cui il soggetto e l'oggetto sono tutti e due costituiti soltanto in certe condizioni simultanee, ma nell'ambito delle quali non smettono di modificarsi l'uno in rapporto all'altro e quindi di modificare lo stesso campo di esperienza. Più chiaro di così, ce l'ha scritto lui. Deriva da qui il terzo principio metodologico, scegliere come ambito di analisi le pratiche, affrontare lo studio attraverso quello che si faceva. Per esempio, che cosa si faceva dei folli, dei delinquenti o dei malati? Certo, si può cercare di dedurre le istituzioni in cui venivano sistemati e i trattamenti a cui erano sottomessi dalla rappresentazione che si aveva di essi o dalle conoscenze che si credeva di avere su di essi, e si può anche cercare di cogliere quale fosse la forma delle vere, tra virgolette, malattie mentali e le modalità della delinquenza reale in una certa epoca per spiegare che cosa se ne pensasse allora. Michel Foucault, è lui che parla, ma Michel Foucault affronta le cose in modo affatto diverso. Studia prima l'insieme dei modi di fare, più o meno definiti, più o meno riflessi, più o meno finalizzati, attraverso i quali si delinea sia ciò che si era costituito come reale per coloro che cercavano di pensarlo e di dominarlo, sia il modo in cui questi si costituivano come soggetti capaci di conoscere, di analizzare ed eventualmente di modificare il reale. Le pratiche, intese come modo di agire e di pensare, offrono la chiave di intellegibilità per la costituzione correlativa del soggetto e dell'oggetto. Lo ripeto perché questa roba andrebbe presa e infilata su per le narici a tutti quelli che parlano del Foucault irrazionalista, di tutte queste altre belle stupidaggini qua. Le pratiche intese come modo di agire e di pensare offrono la chiave di intellegibilità. Dov'è l'irrazionalismo, proprio Giuda? Di intellegibilità, di comprensione, no? Per la costituzione correlativa del soggetto e dell'oggetto. Ma se non ci sono le pratiche, sono questi processi che costituiscono i concetti, i soggetti, le figure, sono delle cose che a noi appaiono stabili. Perché? Semplicemente perché i conti sembrano stabili le montagne. Perché non siamo in grado, perché non abbiamo la scala, nel caso delle montagne temporale, nel caso del soggetto perché ci siamo dentro e quindi non riusciamo, siamo dentro il processo e non riusciamo a vederlo, ma come le montagne cambiano, cioè voi sapete, cioè tutti avete letto il Signore degli Anelli, spero, è l'unico libro fantasy che tollero, uno dei pochi libri fantasy che tollero, non so, e c'è questa bellissima figura nel Signore degli Anelli di questi Ent, no? Di questi esseri, di questi alberi, che parlano, si muovono, fanno come noi, si muovono, è esattamente questa cosa, cioè è il riconoscimento che nulla è immobile, che nulla è, e che quindi tutto quello, quando noi prendiamo qualcosa e la percepiamo come immobile, come stabilita, come ferma, come fissa, come fondata, il maledetto fondamento sul quale, come se il fondamento ce l'hanno solo le vittime della mafia che gli infilano i piedi nel cemento fresco, quelli sono ben fondati, però è un fondamento che ovviamente non vi auguro e al quale mi auguro io stesso di non essere sottoposto. Vi ringrazio e ci sentiremo la volta prossima. Se c'è tempo volete fare domande, ma non so. Allora, questa cosa è l'archivio Foucault, è un libro che non c'è più purtroppo in giro. Allora, questa è una edizione parziale italiana della grande opera di Foucault, che è stata quella che ci ha fatto capire davvero Foucault prima dei corsi della Collège de France, che è il Dites et Écrits. Dites et Écrits. Se non sapete il francese è una roba difficile. Allora, si legge Dites et Écrits. Si scrive Dites et Écrits, con tutti gli accenti a posto, e sono i quattro volumi usciti fra il 94 e il non so quando, che raccolgono tutte le opere, diciamo, minori, cioè gli articoli, i saggi pubblicati su varie riviste, le interviste, e sono una miniera enorme, ma la cosa fondamentale, purtroppo non nell'edizione italiana, ma in quella francese, è che c'è per la prima volta un indice dei nomi, che è un motore di ricerca perfetto per andare a studiare, come dire, Foucault, e quindi chi vuole. Allora, in Italia c'è questa edizione parziale in tre volumi di Feltrinelli chiamata Archivio Foucault. Alcuni di questi scritti poi li trovate ripubblicati in altri libri, perché sono un po' casino. Io però credo che questo ci sia solo qua, in italiano. E qui c'è questa voce, quindi il testo si chiama Michel Foucault, perché è la voce Michel Foucault, firmata Maurice Florent, che in realtà è lo stesso cercolo. Ed è uno, chi vuole leggerlo, è uno dei, magari questo ve lo metto nella dispensa, ci si mette niente, perché è molto, proprio perché è sintetico, no? Non ci avevo pensato, ma si può, visto che per fortuna ancora non l'abbiamo finita, aggiungiamo questo e quindi vi do questa cosa. Bene. Altri? Ma tanto è, che ore sono? Perché sono calci acidi, adesso no, per me, devo dire, ti spiego. La componente pragmatista, la filosofia pragmatistica americana è ovviamente degna di ogni, diciamo, rispetto, però è una filosofia che ha poco, cioè ha scarsi legami con il modo in cui si è sviluppato il pensiero in Occidente. Se fai caso, non è esattamente neanche una traduzione della filosofia analitica inglese o a volte tedesca, diciamo della linea primo Wittgenstein, Frege, eccetera, eccetera. C'ha altre cose. E in effetti Foucault ha avuto pochissima influenza. Credo che lui avesse letto ovviamente William James, che è il fratello di Henry James, quando aveva studiato psicologia, ma quindi si può fare il cose, però è una cosa un po' astratta, non ci spiega bene come è arrivato Foucault a certe cose. Mentre spero che ci sarà l'occasione di parlarne, dunque voi tutti sapete che più o meno la filosofia del Novecento viene suddivisa in queste due grandi aree, i cosiddetti analitici e i cosiddetti continentali, perché insomma le scuole principalmente francese e tedesca sarebbero, diciamo, non avrebbero la stessa idea. La filosofia analitica dice non ci sono problemi metafisici, sono tutti problemi di linguaggio e basta. La filosofia continentale invece esplora i concetti, eccetera, vuole distruggere magari la metafisica, ma si impegna in quel senso lì. Allora, Foucault è uno che sta stretto in questa categoria, non è un vero continentale, anche perché ha spesso dialogato, e ce n'è spesso di filosofi. Ecco, c'è un solo filosofo in America, che varrebbe la pena di parlare, di mettere in relazione, anche che è Richard Rorty, certo. Perché Rorty è Richard Rorty, R-O-R-T-Y. Richard Rorty è in America l'esponente più rilevante di una linea rigorosamente scettica, diciamo, molto più di William James, diciamo di Emerson. Emerson poi era il trascendentalismo, a mio modestissimo parere, è un po' un pasticcetto, insomma. Cioè Emerson è uno anche, diciamo, una bella esperienza leggere, però insomma non è che sia sempre così perspicuo. Però da lui poi derivano un sacco William James, anche gli altri, quello che ha fondato il pragmatismo, che si chiama il pragmatista più da Dewey. Insomma, Dewey, sono tutte robe che vanno, cioè, insomma, ci sono, però quella è un po' un'altra, come dire, esperienza. E anche Peirce. Ma se voi pensate, anche Peirce è quello che prima di Saussure diversi decenni prima aveva inventato un pensiero dei segni, però in Europa si è voluto Eco per costruire una semiotica più influenzata da Peirce. Tutto il resto, da parte in poi, francesi, eccetera, sono tutti saussuriani, è Saussure quello che è più. Io per questo vi parlo sempre di Saussure. Di Peirce addirittura pensate che per un'intera estate mi studiai tutti i suoi scritti di logica perché pensavo di tradurli in italiano, poi scoprì dopo che c'era un altro che stava traducendo e disse patente. Cioè non è uno che non amo, cioè mi piace, eccetera. Però devo dire obiettivamente a meno legami. Ma dove c'è il fondo? Cioè, non so, c'è nel calendario. C'è anche l'introduzione. C'è l'annodo. Adesso vediamo. Ah, c'è l'annodo vero. Vabbè. Cominceremo con un'altra cosa. Questa è un'attività del piede dell'annodo. Domani facciamo il cambiamento.